Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Chi conosce questo programma sa che ripeto spesso che i libri li scelgo a volte per il titolo o per l'incipit, poi non sempre, insomma, rimango soddisfatta. In questo caso, sì, sono decisamente rimasta soddisfatta. Il romanzo si intitola La tentazione di essere felici, titolo meraviglioso secondo me, l'ha scritto Lorenzo Marone, pubblicato da Longanesi. E non contenta di aver letto ovviamente il titolo, sono andata a leggere l'incipit e anche lì, devo dire, sono rimasta abbastanza fulminata, quindi lo condivido con voi. Mio figlio è omosessuale. Lui lo sa, io lo so. Eppure non me l'ha mai confessato. Niente di male, sono molte le persone che attendono la morte dei genitori per lasciarsi andare e vivere liberi la propria sessualità. Solo che con me non funzionerà. Ho intenzione di campare ancora a lungo, almeno una decina d'anni. Se Dante vorrà emanciparsi, quindi, dovrà fregarsene del sottoscritto. Io a morire per i suoi gusti sessuali non ci penso proprio. Beh, con un incipit così, secondo me, un libro va assolutamente letto. Lorenzo Marone, tu sei l'autore di questo La tentazione di essere felici. Partiamo proprio dal titolo. Devo dire, è un titolo fortunato, perché insomma è un titolo che piace. Io l'ho fatto vedere in giro, anche a colleghi, ad amici. La tentazione di essere felici, perché appunto è in quella parola tentazione e felicità. È farina del tuo sacco, della casa editrice? Perché questo titolo, prima ancora di parlare del protagonista? No, in realtà è uno studio che nel senso nasce da è un'idea anche della casa editrice, insomma, è nata insieme come idea. Aveva un altro titolo, però siamo giunti a questo che ci sembrava più efficace, un titolo efficace. L'incipit però è assolutamente tutta farina del tuo sacco in questo caso. Sì. Allora veniamo al protagonista di questo romanzo. Il protagonista ha 77 anni, quindi sì. Non è un tuo coetaneo, non è un libro autobiografico, almeno in questo siamo sicuri. Si chiama Cesare Annunziata, abita a Napoli, è ambientato a Napoli, ed è un vecchio, diciamo, burbero, ironico, a volte cinico, che guarda, ovviamente come si fa sempre quando si arriva a una certa età, alla sua vita passata, fa dei bilanci, ha dei rimpianti, in alcuni casi dei rimorsi. Come hai fatto a immedesimarti in questa voce narrante? La sensazione che si ha è che sia scritto appunto da una persona più grande di te, invece pura fiction, sei uno scrittore che si è immedesimato. Cos'è i rimpianti, i rimorsi, il guardare indietro? È una cosa che ti appartiene come carattere? Sì, sicuramente. Anche se penso che poi sia una cosa comune un po' a tutti, nel senso che comunque tutti si guardano un po' indietro, tutti abbiamo qualche rimorso, qualche rimpianto. A me la parte autobiografica del romanzo è proprio quella di questo analizzare il non fatto, no? Tutte queste scelte non compiute, questa vita non vissuta. Infatti Cesare ha fatto tutta la vita un lavoro che non gli piace, ha avuto una moglie che lui dice di non amare. Di non aver amato. Quindi sì, questa è la parte autobiografica. Ovviamente poi che sia un personaggio di 77 anni rende, cioè comunque un anziano ha un'analisi molto più ampia, no? Mi interessava proprio questo. Una persona che è arrivata, diciamo così, quasi al termine del suo percorso terreno, quindi ha una veduta più ampia su quella che è stata la sua vita. Ecco, dicevo che è sicuramente un uomo burbero, ironico, cinico, ma Cesare Annunziata ci fa o ci è? Domanda proprio intellettuale. Più ci fa, nel senso che in realtà lui è un finto cinico, è uno che usa questa sua ironia, il sarcasmo, anche il cinismo, per affrontare la vita con più leggerezza, per cercare di non guardare in faccia più che altro la vita, i suoi rimpianti, quindi un po' sono i suoi strumenti per schivare il dolore che poi nasce dal rendersi conto di non aver avuto una vita piena o comunque non quella che lui desiderava. Lui ha due figli, sì. Nell'incipit si fa riferimento a Dante, che è il figlio appunto omosessuale, che non ha avuto mai il coraggio di confessargli la sua omosessualità. E poi c'è l'altra figlia, Sveva, che fa l'avvocato e sembra essere la sua preferita. Che rapporto ha con i due figli? Perché anche qui lui è piuttosto burbero, non è il papà classico, e neanche il nonno classico. No, in realtà lui dice di aver sempre preferito Sveva, che poi forse è quella che più gli assomiglia, no? Perché questo carattere un po' spigoloso. Nevrotica, fra virgolette, diciamo così. Invece poi anche durante poi il romanzo, durante la storia ci si rende conto che lui è anche molto legato al secondo genito. Nel figlio rivede anche un po' la moglie, e quindi poi rivede proprio anche i lati migliori della moglie, che lui non perde, cioè sta sempre lì a... Lui chiacchiera anche con... Sì. La moglie, però in realtà poi anche poi attraverso l'analisi del figlio, attraverso proprio il rapporto con suo figlio, riesce a far capire al lettore che in realtà questa moglie non era poi così male come lui, non era così cattiva, fra virgolette, come lui dice all'inizio. E quindi questo rapporto con il figlio è un rapporto che nasce proprio dal... che lo aiuta a riscoprire, diciamo così, in tarda età, anche il rapporto con questa sua moglie, lui dice di non aver amato. Che la moglie insomma è morta, quindi è morta, naturalmente sì. ne parla a posteriori. È bello questo rapporto fra Cesare e il figlio Dante, perché si vede, è come un elefante che cammina in una cristalleria, come si dice. Sì. Cioè lui è piuttosto impacciato, il padre, perché non sa. Cioè lui sa, è imbarazzato, sì. Sa che il figlio è gay, sì. Però non vuole fargli sapere che lo sa e così via. Perché in realtà lui è imbarazzato proprio nel rapporto col figlio, non avendo come se non ci fosse proprio intimità, no? Questa è una cosa che secondo me accade spesso, ed è poi una cosa abbastanza toccante, cioè quando ti accorgi che fra un padre e un figlio c'è quella sorta di imbarazzo, quella sorta di non saper, di stare nella stessa stanza, forse quasi addirittura non sapere cosa dire al proprio genitore o al figlio. E quindi c'è un po' questo rapporto così. Poi ovviamente lui prende le redini in mano, Cesare a un certo punto poi dirà quello che non è riuscito a dire in tanti anni. È una scena, devo dire, fra sì. Le più belle, incisive e divertenti. Grazie. Del libro, perché è un libro che tocca diverse corde, è un libro ironico, è un libro commovente, perché insomma ci sono dei momenti in cui insomma la lacrimuccia può spuntare negli animi sensibili, mettiamola così, per il solo fatto che lui è al termine della sua vita, insomma pensa e ripensa, rimpianti, rimorsi, come dicevamo prima. Questo è un personaggio, Cesare Annunziata, che è stato paragonato da alcuni. Ne avevamo parlato anche all'inizio dell'anno qui su Radio 24, parlando dei libri che sarebbero stati probabilmente protagonisti del 2015, a Barney Panofsky, che è il protagonista di La versione dei Barney, il romanzo di Mordecai Richler, che è stato insomma un best e long seller. Proprio per questo suo carattere spigoloso, burbero, per il fatto che ama molto le donne, un traditore, insomma, per diversi aspetti. Questo paragone è ingombrante per te o lo accetti, insomma, con allegria? A parte che è un grande paragone, cioè, nel senso, essere paragonato a un libro è un autore del genere. No, non è ingombrante, no, fa solo piacere, anche se non mi... Ma tu ti eri ispirato a Barney Panofsky? No, questo no. Non mi sono ispirato né nessun libro in particolare, né nessun autore, in realtà neanche con nessun personaggio. È tutto frutto di fantasia, anche se poi in realtà Cesare è un uomo comune, come ce ne sono tanti. Questi anziani che sono dovunque, che spesso neanche vediamo, e che invece sono capaci appunto di avere dentro un mondo enorme, no? Sì, infatti, perché poi in realtà Cesare appunto si dipinge in un modo, ma dentro ha... questo affetto, anche questa voglia insomma di aiutare gli altri, che viene fuori grazie ad un episodio. C'è una sua vicina di casa, giovanissima Emma, lui e altri vicini si accorgono che viene picchiata regolarmente dal marito, e lui, in modo anche qui un po' impacciato, pensa di volerla aiutare. A un certo punto dice, se non erro, sto veramente ricordando a memoria, che ogni volta che prova a tendere la mano, questa mano gli trema. Si dice, non ho imparato ancora a porgere la mano senza tremare. Ecco, senza tremare. È in questo che sta tutto il suo conflitto fra il darsi agli altri. Perfetto, sì è così. Non è... soffre di Parkinson, insomma. No. Sì, è così. È uno che, come dicevamo prima, per cercare di sopravvivere al suo stesso dolore, per cercare di comunque mantenere un certo equilibrio, tende a essere egoista, fra virgolette, perché appunto poi quasi si dovrebbe aprire un altro discorso sul termine egoismo. Tende quindi a essere egoista per cercare di godersela, no? Come dice all'inizio. E poi l'arrivo di Emma con il suo trascorso di violenza domestica, ovviamente quasi lo costringe, no? A intervenire lui, e quindi ad aprire, diciamo così, il suo cuore, cosa che lui fa con difficoltà. Fa con difficoltà, infatti si capisce, insomma, perché anche perché si è vissuto, come dire, 77 anni della sua vita proprio all'inizio del romanzo. A un certo punto, qui devo citare assolutamente leggendo, dici: mi chiamo Cesare Annunziata, ho 77 anni e per 72 anni e 111 giorni ho gettato nel cesso la mia vita. Poi ho capito che era giunto il momento di usare la considerazione guadagnata sul campo per iniziare a godermela sul serio. Eh sì, eh sì, è così, cioè lui decide a un certo punto, basta. Ma senza deve arrivato, recuperare il tempo sì, perduto. Devo, a un certo punto dice, non devo permettere agli altri di rovinarmi gli ultimi giorni di vacanza. Fra le altre frasi che ho segnato in questo tuo romanzo, ce n'è una che mi è piaciuta molto. Tu scrivi a un certo punto: ho allora capito che non esistono persone più coraggiose di altre, c'è solo chi affronta il dolore quando deve essere affrontato. Anche in questa visione del dolore, come affrontarlo, Cesare sembra essere un uomo che spesso è fuggito davanti al dolore, fugge ancora davanti alle situazioni difficili. Quindi lui dice sì che non ha avuto una vita felice, però insomma era un uomo che di fronte alle difficoltà prendeva la strada più... aggirava l'ostacolo. C'è però, come dire, una sorta di cambiamento, ora senza svelare troppo naturalmente di come sì, va a finire il romanzo. C'è ovviamente un cambiamento, perché comunque lui, senza svelare, però comunque interviene, nel senso entra nella storia, in questa storia drammatica, tragica della vicina di casa della che vicina viene di picchiata. Casa. C'è un cambiamento proprio in lui, anche appunto con il rapporto con il figlio, quindi lui si espone di più, si apre di più proprio alla vita, anche nel finale ovviamente. Però comunque è uno che rimane sempre, diciamo, secondo me Cesare non è uno che poi cambia fino in fondo, è uno che, perché forse non sarebbe neanche poi troppo veritiero, no? È uno che di fronte a un evento importante, un evento doloroso, riesce ad aprirsi, a cambiare quel poco che basta, perdonarsi agli altri, ecco. Tra l'altro questo tuo romanzo, leggevo, è uno degli 11 romanzi, degli 11 libri che la Berlinale, quindi insomma il Festival del Cinema di Berlino, dove viene consegnato l'Orso d'Oro, uno dei festival più prestigiosi del cinema in Europa e anche nel mondo, è stato segnalato il tuo libro fra gli 11 dei quali si potrebbe trarre un film. Anche qui, chapeau. Grazie. Sì, chi ti immagini, come te lo immagini il tuo film? È un romanzo che potrebbe essere cinematografico? Sì, penso di sì, in realtà lo dicono in molti, nel senso forse è una scrittura abbastanza cinematografica, no? Non lo so. E poi lui è un personaggio cinematografico, secondo me, sì, io lo vedo, ci spero. E chi ci vedi, dai, su, tiriamo fuori dei nomi. Ma in realtà la prima persona, il primo grande attore a cui si pensa, e non sono l'unico a dirlo, Tony Servillo. Però poi ce ne sono tanti altri, non so, Giancarlo Giannini. Ecco, abbiamo avuto ospite qualche tempo fa qua a Radio 24, quindi insomma possiamo mettervi in contatto. Avete anche la stessa casa editrice, quindi direi che insomma i gradi di separazione sono assicurati. Nella descrizione di Napoli si avverte da parte di Cesare un certo fastidio per alcune immagini tipiche della napoletanità o immagini stereotipate. Tu sei napoletano. Doc. Che rapporto hai con la tua città e che rapporto hai voluto far emergere in questo romanzo? Il rapporto con la mia città, come tutti i napoletani penso, è un rapporto viscerale di amore e ovviamente di odio, perché è una città che, con tutti i problemi che si porta appresso, non puoi non odiarla in alcuni momenti. Però è una città che ti dà tanto, soprattutto secondo me per quel che riguarda poi l'ispirazione e l'arte, cioè la mia scrittura prende molto da Napoli, non potrebbe essere altrimenti. Però mi interessava non far apparire la solita Napoli, cioè mi interessava ambientare la storia a Napoli perché è la mia città, ma in un condominio che può essere il condominio di una qualsiasi città. Cesare è un personaggio tra l'altro simpatico, insomma fa simpatia perché con tutti i suoi difetti, non so, prende il taxi e poi a un certo punto dice di essere il generale della finanza e non paga il taxi, ma non lo fa per risparmiare in realtà, perché gli piace proprio fare un gioco delle parti, uno show, e sembra veramente che stia sempre su un palcoscenico. Grazie allora a Lorenzo Marone, autore di La tentazione di essere felici, pubblicato da Longanesi. tutti ti definiscono esordiente, ma in realtà tu hai già esordito, quindi come ti definiamo? Semi esordiente. Facciamo questa nuova classificazione. Il semi esordiente Lorenzo Marone, La tentazione di essere felici, un romanzo che vi consiglio vivamente di leggere, vedrete che sarà uno dei protagonisti del 2015. Ora vi parlo di un giallo vecchio stile, potremmo dire all'Agatha Christie, insomma c'è poco sangue, non ci sono serial killer, ma c'è soprattutto indagine psicologica intorno ai personaggi. Il romanzo si intitola Il tempo non cancella, scritto da Roberta De Falco, pubblicato da Sperling e Kupfer. Roberta De Falco è lo pseudonimo di Roberta Mazzoni, che è una sceneggiatrice cinematografica piuttosto nota. E lei da alcuni anni è anche autrice appunto di gialli con un personaggio seriale, il commissario Ettore Benussi. Stavolta Ettore Benussi dovrà risolvere un caso insolito. Ettore Benussi ha la passione per la lettura, anche quella per la scrittura. Si trova a Trieste, sa che una famosa agente letteraria arriverà a Trieste per accompagnare uno scrittore, un po' âgé, diciamo così, e questo scrittore viene poi trovato in fin di vita fra gli scaffali di una biblioteca. Benussi è sicuramente un commissario un po' insolito rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nei romanzi gialli, perché è una persona proprio normale, insomma. E poi abbiamo già detto, alla passione per la lettura e per la scrittura, spesso questo non compare nei commissari dei gialli italiani e stranieri. E allora abbiamo chiesto alla De Falco come le è venuta in mente l'idea di questo personaggio. Sentiamola. Mi è venuta proprio dall'idea di fare un personaggio proprio in antitesi, l'idea proprio dell'antitesi dei personaggi, dei commissari, dei personaggi polizieschi normali che hanno una specie di stereotipo da cui è difficile fuggire. Ho letto adesso ultimamente Collins, che è bravissimo giallista, però proprio i loro personaggi sono sempre persone senza rapporti, senza passione, senza cultura, senza momenti per loro, c'è solo la risoluzione della bugia da fare. Allora a me piaceva fare un commissario che fosse prima di tutto italiano, che avesse i problemi di noi italiani, dunque anche le malinconie e la profonda stanchezza che abbiamo noi italiani in questo momento. Dunque. E poi mi piaceva che fosse una persona con i problemi di tante persone, appunto familiari, una famiglia normale, non uno sempre separato, sempre che deve andare a cercare avventure fuori, una figlia adolescente con i problemi dell'adolescenza e soprattutto il rapporto con la cultura, perché noi siamo fatti di cultura, sembra che in tutti i nostri libri, tutti i nostri commissari vivano o guardando la TV o non facendo niente o dormendo o bevendo di solito. L'unica forse debolezza di Benussi è quella del cibo, insomma, perché è sempre perennemente a dieta. Come tantissime persone. Diceva Petrini, l'altro giorno l'abbiamo visto, dice c'è più gente che dimagrisce di quella che muore di fame. No, questo perché naturalmente questo riguarda me. In quel momento, quando scrivevo, facevo l'ennesima dieta, perché io sono da quando ho 10 anni sovrappeso, dunque conosco tutto e mi sono un po' divertito a prendermi in giro e anche a far capire le sofferenze di chi deve sempre perdere peso. Un po' lo fa e poi dopo recupera. Dunque ho preso in giro Benussi prendendo in giro me. Anche in questo quindi Benussi è una persona normale, insomma, come tutti noi. In questo romanzo, nello specifico, il fatto che lui sia appassionato di lettura, ma di scrittura, che insomma ha il classico romanzo nel cassetto, c'entra molto. Perché ambientazione a Trieste, lui sa che arriverà una famosa agente letteraria per accompagnare uno scrittore e qui succede qualcosa, naturalmente, perché il delitto ci deve essere, insomma, in ogni giallo che si rispetti, anche se in questo caso, insomma, non avviene subito, non avviene all'inizio del romanzo, come mai? Infatti io faccio dei romanzi e dei gialli un po' sui generi, se questo è un pochettino, da una parte me la sono rimproverato, dall'altra parte forse è la cosa che incuriosisce di più, perché sai, se noi siamo nella dittatura di dover fare sempre le cose che la gente si aspetta da noi, l'importante in ogni romanzo è la suspense, c'è in tutti i romanzi, anche quelli non gialli. Tutti i romanzi hanno una grande domanda a cui si deve dare. Dunque io penso che quasi tutti, la grande letteratura è suspense, è gialla, perché anche Anna Karenina, come finirà la loro storia. Dunque io ho più più che i gialli, con la, difatti come vede non c'è molto sangue, non c'è molto serial killer, non c'è molto il degrado dell'umano. Insomma, diciamo, lei sì, analizza più l'aspetto psicologico, sì, dei personaggi. Sì, difatti, sono un pochettino più nella parte psicologica, c'è un famoso filone dei psicologi, no, della cosa. Mi piace molto più analizzare i personaggi dall'interno, illuminarli dall'interno. Comunque, certo, c'è un giallo e arriva a pagina 100 perché prima ho voluto far capire questo mondo editoriale, mi sono un po' divertita, ecco, sì, mi sono un po' divertita. Anche lo scrittore si diverte. Nei suoi romanzi spesso la storia dei personaggi, la storia quotidiana dei personaggi si intreccia alla cosiddetta storia con la S maiuscola. C'era il suo primo romanzo dove in qualche modo c'entrava la Shoah, Auschwitz. In questo invece ritorna il dramma dei profughi istriani, perché appunto questo scrittore che viene ferito si ricostruisce la sua storia, il suo passato, ed è stato uno dei profughi istriani. Perché lei vuole sempre comunque mettere, come dire, accendere un faro anche sulla storia. Anche sempre per questa cosa della memoria, di cui noi siamo fatti di memoria, noi siamo fatti di storia, e si dimentica, noi viviamo in un'eterna circolarità oggi, no? Cioè, ripetiamo sempre questi gesti, abbiamo molta fatica a fermarci. Allora io ho voluto fare, siccome i gialli di solito li leggono le persone, anche insomma persone giovani magari, per passare qualche ora, ho voluto anche fare un attimo un po' didattico, posso essere un po' didattica, perché io penso che noi abbiamo un grande passato. Trieste è la città perfetta, perché è la città che è stata al confine col grande comunismo, cioè a due passi da noi c'era il grande comunismo, c'era l'impero, poi c'è stato questo dramma terribile degli esuli istriani. Gli esuli istriani sono stati italiani da quando c'era la Serenissima, erano italiani, come se lei adesso gli dicesse vai via da casa tua perché non sei più nessuno e nessuno ti vuole. Dunque i profughi di adesso, i barconi di allora, erano la stessa condizione. Ma io proprio faccio dei gialli proprio apposta per illuminare un periodo storico. Mi fa molto piacere rinominarlo per far capire che noi non siamo fatti di istinti e desideri e soldi, così, ma siamo fatti di memoria, siamo fatti di tradizioni, siamo fatti di ferite della storia. Tutti noi siamo in qualche modo feriti dalla storia. Noi abbiamo avuto due guerre terribili in un secolo, più dittatura a non finire, più terrorismo. Poi siamo arrivati di nuovo e c'è il terrorismo porta a porta. Se non facciamo così, noi non siamo, perché viviamo? Viviamo per non trasmettere niente. Dunque io, questo è un po' ambizioso, e questo c'entra la mia parte sceneggiatrice, perché io ho sempre fatto molte cose storiche, cioè le cose che più mi piacevano, Carlo Magno, Promessi Sposi, ma insomma tante Casa Ricordi, cioè tutte le cose della storia mi piace, perché illuminare la storia vuol dire dare un passato più forte al nostro presente, no? Questa era Roberta De Falco, ora in libreria con Il tempo non cancella, pubblicato da Sperling e Kupfer. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Naturalmente potete scriverci a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Siamo su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.